il ritorno è veramente un'urgenza che è dettata dal fatto che non una di meno ha responsabilmente rinunciato allo sciopero dell'8 e del 9 marzo perché era già chiaro e poi è stato proclamato, diciamo così, che la situazione era una situazione carica di rischio e non potevamo permetterci che un assembramento mettesse appunto a rischio la vita di chi avrebbe partecipato. E da quel momento siamo state dentro alla pandemia, nel senso che le protagoniste dello sciopero femminista e transfemminista di questi anni l'hanno vissuta vedendo travolta la propria esistenza, non soltanto dalle difficoltà profonde che l'isolamento e il distanziamento sociale hanno prodotto, ma anche perché le condizioni di vita, di lavoro sono profondamente cambiate. Pensiamo che cosa possa avere significato per le madri che sono rimaste a casa con bambine e bambini per mesi e mesi e che hanno dovuto o abbandonare il lavoro, e adesso stanno cominciando a venire fuori i numeri di questi abbandoni che sono altissimi, e hanno dovuto fare un doppio lavoro simultaneamente, il lavoro produttivo e quello riproduttivo insieme, in smart working per esempio, oppure si sono trovate a fare lavori essenziali come quelli di sanificazione che hanno ugualmente travolto l'esistenza, esponendola peraltro maggiormente al rischio del contagio. E quindi la pandemia ha avuto degli effetti profondi che hanno ricalcato e accentuato la divisione sessuale del lavoro che non una di meno ha sempre denunciato, senza considerare il fatto che chiuse in casa ci siamo ritrovate dentro allo spazio dove comincia la violenza maschile che da sempre è stata la miccia che ha acceso il movimento femminista e transfemminista globale. E infatti le violenze domestiche sappiamo che sono aumentate e che i centri antiviolenza hanno dovuto fare di tutto e di più per riuscire a rispondere alla necessità delle donne che volevano fuoriuscire dalla violenza di affrontare i loro percorsi in una situazione difficilissima. Tutte queste condizioni, penso anche, per aggiungere un'altra, quella delle donne migranti che lavorano nelle case, fanno il lavoro domestico e di cura, si sono ritrovate a volte a perdere lavoro e tetto sulla testa, e altre volte si sono ritrovate in condizioni di messa al lavoro totale, tipo non uscire di casa per non correre il rischio di contagiare la persona che curi, e quindi 24 ore su 24 al lavoro con la ciliegina sulla torta di una sanatoria che accentua l'arbitrio dei padroni perché mette a loro la possibilità, rimette nelle loro mani la possibilità di dare i permessi. Torniamo in piazza perché questo è insopportabile. Torniamo in piazza perché abbiamo un bisogno sfrenato di urlare che non possiamo e non accetteremo questa situazione, né un ritorno alla normalità, perché come hanno detto le cilene la normalità era il problema, ma neanche una ricostruzione che è pagata sulla vita, sulla pelle e sulla fatica delle donne dentro a una società che tramite la pandemia non ha fatto che intensificare la sua organizzazione patriarcale. La piazza sarà una piazza che darà espressione a questa insofferenza, a questo rifiuto, a questa voglia di ricominciare a lottare, continuando ad avere la stessa responsabilità che abbiamo avuto l'8 marzo. Certo, questa chiamata, diciamo, alla mobilitazione di non una di meno è una chiamata che è stata fatta a Bologna. Da una parte, insomma, si inserisce in una cornice più ampia in questa città e dall'altra ha un rilievo anche a livello nazionale, giusto? Sì, assolutamente, è una giornata nazionale, nel senso che questo è il momento in cui non una di meno, in tutte le sue articolazioni, che sappiamo essere tante, locali e capillari in Italia, in tantissime città, sul sito, la pagina Facebook di non una di meno si trovano tutte le informazioni dei diversi eventi che ci saranno in altre parti d'Italia, e il 26 e non una di meno nel suo complesso, che torna in piazza anche per rilanciare l'iniziativa politica, cioè finalmente diamo voce e visibilità a tutti i terreni che per noi costituiscono un progetto di lotta e di liberazione che ci attende intensamente nei prossimi mesi. Dall'altra parte ci sono delle mobilitazioni associate a questa, faccio riferimento a quelle del 27 quella dalla parte della battaglia di liberazione in Rojava, che ricordo per la sua importanza visto quello che sta succedendo in questo momento, e il B-Side Pride che occuperà lo spazio di una presa di parola forte delle soggettività delle persone dissidenti e che ha un collegamento con l'una di meno, condividendo, come hanno molte volte affermato, la comprensione strutturale della violenza maschile di genere e la necessità di fare di questa battaglia per la liberazione una battaglia sociale sulle condizioni di vita. Per cui c'è un collegamento tra le piazze di esperienza, di prospettiva, e lo richiameremo anche domani pomeriggio.